esprimerà in momentanea la cattezza degli uomini. Spiriti dalle difficoltà crollano lungo un destino di rovina. Sabbie di luna crescita, le loro ambizioni e speranze. Restano solo ricordi e lampi della nobiltà di pochi. Non si esaurisce il fiume della vita custodita in fili invisibili, l'eredità di un motto scomparso, gorga dal fuoco profondo. Attorno